adattato a questa ricetta molto semplice in cui usiamo il kiwi a crudo, senza cotture, in modo da valorizzarlo al massimo in tutte le sue potenzialità. Si prende un po' di acqua, un po' di zucchero, proprio pochissimo, un cucchiaio, si fa cuocere con pochi minuti con quattro semi di anice stellato, io mi riferisco a quattro persone, sì. Si fa uno sciroppo profumato all'anice stellato, i kiwi invece vengono sbucciati, tagliati a cubetti e conditi con questo sciroppo di anice stellato freddo, l'anice stellato viene tolto momentaneamente. Poi si prendono delle mele, si tagliano sempre a cubetti come abbiamo tagliato i kiwi, si condiscono con un po' di limone per non farle diventare nere, cannella e, se si vuole ma non è obbligatorio, un po' di miele oppure anche di malto di cereali. Poi si mettono insieme i kiwi con le mele, scusate, sì. E si fanno delle coppettine e si guarniscono, si decorano con l'anice stellato che avevamo messo da parte e un po' di nocciole sgusciate e tritate. Ci piace.